Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. È perfetto, come la tua perfetta e irresistibile immaginazione. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Stiamo per raccontarvi Il grande Gatsby di Baz Luhrmann. È la storia di un aspirante scrittore, Nick Carraway, che alla ricerca del suo personale sogno americano si ritrova vicino di casa del misterioso milionario Jay Gatsby, animatore di feste grandiose nella sua magnifica villa. Nick viene catapultato nel luccicante mondo dei super ricchi e diventa testimone di amori impossibili, illusioni e tragedie. Audiogrammi in radio come al cinema. Negli anni in cui ero più giovane e vulnerabile, mio padre mi diede un consiglio. Cerca sempre di vedere il lato migliore della gente, mi disse. Di conseguenza, tendo ad astenermi da ogni giudizio. Ma persino io, a volte non ci riesco. Nick Carraway, giovane e promettente agente di borsa, apparteneva a una famiglia da tre generazioni agiata e influente del Middle West. Quando era tornato da New York, gli pareva di desiderare che il mondo intero fosse in uniforme e in una specie di eterno attenti morale. Non voleva più scorrerie ribelli e indiscrezioni privilegiate nel cuore umano. Soltanto Gatsby restava fuori dalla sua reazione. Nick Carraway si laureò nel 1915 e poco dopo partecipò a quella migrazione teutonica procrastinata, nota come la Grande Guerra. Quando tornò era diventato profondamente irrequieto e invece di sembrargli il caldo centro del mondo, il Middle West gli parve l'estremità slabbrata dell'universo. Così decise di andare nell'Est a imparare il lavoro di borsa. Le azioni raggiungevano vette da record. Wall Street irretiva i giovani ambiziosi. E io ero uno di questi. Fu un caso che avesse affittato una villa in una delle cittadine più strane del Nord America. Si trovava su quella snella isola ribelle che si stende a est di New York, Long Island. L'edificio alla sua destra era qualcosa di colossale, con una torre da una parte incredibilmente nuova, una piscina di marmo e più di 20 ettari di prato e giardino. Era il palazzo di Gatsby. Di là dalla baia, gli edifici bianchi della mondanissima East Egg luccicavano lungo il filo dell'acqua. E la storia di quell'estate incomincia praticamente con la sera che Nick Carraway vi andò a cenare in casa di Tom Buchanan. Daisy, sua moglie, era una sua cugina in seconda dal lato paterno. Tom apparteneva a una famiglia enormemente ricca. Perfino all'università la disinvoltura con la quale spendeva i quattrini era oggetto di biasimo. E così accadde che una calda sera piena di vento, Nick andò a East Egg. La loro casa era un giocondo palazzo coloniale georgiano bianco e rosso che dominava la baia. Tom Buchanan, vestito da cavallerizzo, era in piedi a gambe divaricate sulla veranda. Shakespeare! Tom! Come va il grande romanzo americano? Ah, avendo obbligazioni adesso, The Walter Chase. Senti, dopo cena tu e io andiamo in città. Non posso. Riprendiamo le vecchie scorribande. Lavoro domani. Niente scuse, tu vieni. La vita la devi dominare, Nick, se sei uomo. Il solo oggetto assolutamente immobile nel salotto era un divano enorme, su cui erano posate, come nella navicella di un pallone frenato, due giovani donne. Daisy Buchanan, la ragazza d'oro. Da lei emanava un calore mozzafiato, la promessa che non desiderava vedere nessun altro al mondo quanto te. Sentono che manco a Chicago. La voce di Daisy era il tipo di voce che l'orecchio segue in tutte le modulazioni, come se ogni parola fosse un raggruppamento di note che non verrà mai più ripetuto. Il suo viso era triste e bello, pieno di cose splendenti. Jordan Becker, golfista molto famosa. Era la persona più scostante che avessi mai visto. Snelle, languide, con le mani posate lievemente sui fianchi, le due giovani donne li precedettero in una veranda soffusa di rosa, aperta sul tramonto, dove quattro candele tremolavano sulla tavola nel vento sopito. Il naso del maggiordomo. Di male non è sempre stato così. Nick, ascolta, ho sentito dire che stavi sposando una ragazza di vecchi, così muoiono presto. Non possiamo parlare d'altro, del raccolto magari. Mi fate sentire incivile. La civiltà sta andando a pezzi. Il telefono squillò di nuovo impaziente. E mentre Daisy scuoteva con energia la testa rivolta a Tom, l'argomento delle scuderie, come del resto qualsiasi argomento, svanì nell'aria. Monsieur Buchanan? Chiedo scusa, torno subito. Nemmeno la signorina Baker, per quanto paresse in possesso di un certo scetticismo audace, era in grado di togliersi del tutto dalla mente la presenza stridula e metallica di questa quinta ospite. Silenzio ora, voglio sentire cosa succede. Succede qualcosa? Ma come, credevo lo sapessero tutti. Io no. Tom ha una donna a New York. Ha una donna? Inutile dire che non si parlò più di cavalli. Tom e la signorina Baker si avviarono pian piano verso la biblioteca, come diretti alla veglia di un cadavere perfettamente tangibile, mentre Nick seguiva Daisy lungo una serie di verande comunicanti fra loro. Nel buio fitto sedettero l'uno a fianco all'altra su un divanino di vimini. Ho passato tempi molto duri, Nicky. E sono parecchio cinica su tutto. Tua figlia immagino che parli e mangi e tutto il resto, no? Senti, Nick, quando è nata, Tom era... Dio solo sa dove. E Dio solo sa con chi. E io ho chiesto all'infermiera se era un maschio o una femmina. Lei ha detto che era una femmina. E io pianto. Sono contenta che lo sia. E spero che sia anche stupida. È la cosa migliore per una ragazza in questo mondo. Essere una bella oca giuliva. Tutte le cose belle e preziose svaniscono così presto. E non tornano più. Quando Nick Carraway lasciò la casa di Tom Buchanan, si sentiva imbarazzato e disgustato. Gli pareva che a Daisy non rimanesse altro da fare che di fuggire con la bimba fra le braccia, ma evidentemente non aveva intenzioni del genere. Quando Nick arrivò a casa a West Egg, si accorse che non era solo. Ad una ventina di passi una figura era sorta dall'ombra, fermandosi in piedi, con le mani in tasca a guardare i granelli argentei delle stelle. Qualcosa nei movimenti disinvolti gli fece capire che quello era il signor Gatsby, uscito a verificare quale fosse la porzione del cielo locale che gli spettava. Pensò di chiamarlo, ma non lo fece, perché d'un tratto egli diede una prova della sua soddisfazione nel sapersi da solo. tese stranamente le braccia verso l'acqua oscura del mare e non si distingueva niente all'infuori di un'unica luce verde, minuscola e lontana, che avrebbe dovuto essere l'estremità di un molo. Quando Nick tornò a guardare nella direzione di Gatsby, questi era scomparso e lui era di nuovo solo, nell'oscurità inquieta. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Un pomeriggio Nick andò a New York in treno con Tom e quando si fermarono sui mucchi di cenere, Tom balzò in piedi e lo costrinse a scendere. Lo seguì fino a una rimessa lungo una specie di strada principale. L'interno era squallido e nudo. Wilson, il proprietario, comparve sulla porta di uno sgabuzzino pulendosi le mani con uno straccio. Salve, Wilson! Come vanno gli affari? Io non mi lamento. Allora, quando me la vende quella macchina? Il mio uomo ci sta ancora lavorando. Se la prende con calma, eh? Forse è meglio che la venda altrove. No, non volevo dire questo, no. Se si tratta d'affari, lei deve parlare con me. Myrtle Wilson, la donna massiccia che aveva oscurato la luce della porta dello sgabuzzino, era sui 35 anni e leggermente grassa, ma aveva un portamento sensuale, proprio di certe donne. Sorrise lentamente e, oltrepassando il marito come fosse un fantasma, strinse la mano di Tom guardandolo arrossire fino agli occhi. Ciao. Signor Buchanan, vuole un dolcetto? No, grazie. No. Signora Wilson, okay. Nick Carraway. Tanto piacere. Nick è scrittore? No, mediatore finanziario, a dire il vero. Voglio che tu prenda il prossimo treno. Adesso? Adesso. Love is blindness, I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? Quella sera, nell'appartamento che Tom teneva per Myrtle, fluttuammo su una sorta di follia chimica, in preda a una disponibilità del cuore che aveva fragorosamente avviluppato tutti noi. E tutto a un tratto, New York cominciò a piacermi. Una volta verso mezzanotte, Tom Buchanan e la signora Wilson si trovarono in piedi l'uno di fronte all'altra, discutendo con voce incolore se la signora Wilson avesse o no il diritto di pronunciare il nome di Daisy. Con un movimento abile e veloce, Tom Buchanan interruppe il suo ossessivo ripetere il nome di Daisy e le ruppe il naso col palmo della mano. Fui l'unico a riceverlo. Con questo voglio dire che nessuno all'infuori di me ricevette mai un vero invito alle feste di Gatsby. Tutti gli altri arrivavano da New York senza invito. L'intera città si stipava nelle automobili e nei fine settimana, ogni fine settimana, piombava da Gatsby. Appena arrivò, Nick fece il tentativo di rintracciare l'anfitrione, ma le due o tre persone alle quali chiese di lui lo fissarono in modo sbalordito e negarono con violenza di essere al corrente dei suoi movimenti. Il signor Gatsby, io abito nella casa qui accanto. Gatsby? Io non l'ho mai visto il signor Gatsby, signore, né io né altri. Solo e un po' a disagio, decisi di prendermi una solenne sbornia. Esattamente in quel momento si trovò di fronte a un giovane elegante che aveva superato da poco la trentina e la cui ricercatezza nel parlare rasentava l'assurdo. Una volta mi ha detto che ha studiato a Oxford. Comunque io non ci credo. Perché? Non lo so, ma non credo che ci sia stato. Chiedo scusa. Signorina Baker, il signor Gatsby vorrebbe parlarle, da sola. A me? Sì, signorina. Gatsby era in piedi, solo sui gradini di marmo, intento a passare lo sguardo da un gruppo all'altro approvando con gli occhi. La pelle abbronzata del viso era liscia e attraente, e i capelli corti avevano l'aria di essere aggiustati ogni giorno. Nick non riusciva a vedere nulla di sinistro in lui. Mentre aspettava il cappello nell'atrio, la porta della biblioteca si aprì e Jordan Baker e Gatsby uscirono insieme. Gatsby si stava congedando da lei, ma l'ardore dei suoi modi si spense bruscamente in fredda cortesia quando parecchie persone gli si accostarono per salutarlo. Nick! Ho appena saputo una cosa sconvolgente. Finalmente, la macchina ci aspetta. Venite, una cosa stupefacente. Ora è tutto chiaro. È tutto molto chiaro. Che cos'è che è chiaro? Tutto quanto. Ecco, ti sto stuzzicando e ho giurato di non dirlo a nessuno. Dire cosa? Nick, mi dispiace, ho giurato. Ho giurato di non dirlo. Una mattina alle 9, verso la fine di luglio, l'automobile smagliante di Gatsby sbucò sul viale roccioso che conduceva al cancello di Nick Carraway e proruppe nella melodia della sua sirena a tre note. Era la prima volta che Gatsby andava a trovarlo. Si dondolava sulla pedana della macchina con disinvoltura, non stava mai del tutto fermo. C'era sempre un piede che tamburellava da qualche parte o una mano impaziente che si apriva e chiudeva. Vide che Nick guardava ammirato la sua macchina. Carina, non trova, vecchio mio? L'ha mai vista prima d'ora? Tutta personalizzata, sovralimentata. Ah, si vesta. Andiamo a pranzo. Tutti conoscevano la sua macchina. Era di un caldo color crema, lucente di cromatura, gonfiata qua e là nella sua lunghezza mostruosa da un trionfo di cavità per cappelli e provviste e utensili, e coperta da un labirinto di parabrezze che rispecchiavano innumerevoli soli. Seduti dietro vari strati di cristallo, in una specie di serra di cuoio verde, partirono per la città. Non erano ancora arrivati al villaggio di West Egg che Gatsby incominciò a lanciare le sue frasi eleganti a metà e a tamburellare imbarazzato sul ginocchio dell'abito color zucchero bruciato. Alla morte dei miei ereditai una gran quantità di soldi e poi vissi come un principino in tutte le capitali d'Europa. Ah, l'Europa? Sì, l'Europa. Parigi, Venezia, Roma, Vienna, Zurigo, Helsinki, Mosca, proprio quando cominciavo a pensare che non poteva essere più fantasioso, poi scoppiò la guerra, vecchio. Divenne un eroe di guerra, sconfiggendo da solo l'intero esercito tedesco. Nella foresta delle Argonne condussi due compagnie di mitraglieri così avanti. Eravamo 5 contro 1. C'era mezzo miglio di vuoto su ogni avanzare. Non un soldato. Nick si chiese se dopo tutto non ci fosse davvero in lui qualcosa di sinistro. Parlava con voce solenne, come se il ricordo di quell'estinguersi improvviso di una stirpe lo ossessionasse ancora. Vede, ho pensato di dirle qualcosa della mia vita perché non volevo che lei pensasse che sono un semplice nessuno. Oh, vede, vecchio mio, sarò costretto a chiederle un'enorme cortesia oggi. Un'enorme cortesia? Sì, la signorina Baker le spiegherà tutto quando prenderà il tè con lei nel pomeriggio. Nick non aveva la minima idea di che cosa fosse questa faccenda, ma era più seccato che interessato. Non aveva invitato Jordan per prendere il tè per discutere su Jay Gatsby. Era certo che gli avrebbe chiesto qualcosa di assolutamente fantastico e per un momento si dispiacque di aver mai messo piede su quel prato troppo affollato. Email audiogrammi @radio24.it. Il signore desidera? Jordan Baker, la famosa sportiva, la golfista. Ah, eccola là, l'ho vista, grazie. Allora? Nick. Tu e Gatsby, che gioco state facendo? Il signore si unisce alla scusa, signora. Nick, ti prego, non vuoi sederti? È tutto molto strano, viene a prendermi nella sua macchina gialla e mi dice tutto della sua vita e della guerra. Si può sapere cos'è questa enorme cortesia di cui continua a parlare? Vuole invitare Daisy per un tè. Daisy. E Gatsby. Perché? Jordan spiegò che Gatsby aveva comprato quella casa in modo da avere Daisy proprio dall'altra parte della baia. E aveva dato tutte quelle feste sperando che lei ci sarebbe capitata una sera. aveva aspettato 5 anni e aveva comprato un palazzo dove distribuiva luce di stelle a falene di ogni genere, unicamente per poter venire un pomeriggio nel giardino di un estraneo a prendere il tè con Daisy. Lei non doveva saperne niente. Nick avrebbe dovuto soltanto invitarla per un tè. Nel giorno convenuto pioveva a dirotto. Alle 2 arrivò una serra con innumerevoli recipienti per contenerla. Un'ora dopo si aprì nervosamente il portone e Gatsby, vestito di flanella bianca con la camicia color argento e la cravatta color oro, entrò di corsa. Sotto i lilla spogli e gocciolanti, una grande automobile aperta saliva il viale. Si fermò. Era Daisy. Sono senz'altro contenta di rivederti. Anch'io sono senz'altro contento di rivederti. Non ci vediamo da molti anni. 5 anni questo novembre. L'automatismo della risposta di Gatsby li paralizzò un altro minuto almeno. Tuttavia, siccome la calma non era di per sé un fine, appena se ne presentò l'occasione, Nick si scusò e si alzò. Gatsby era raggiante, nel senso letterale. Senza parole né gesti di esultanza, un nuovo benessere emanava da lui e riempiva la saletta. Nick, vorrei che veniste tutti e due a casa mia, adesso. Voglio mostrarla a Daisy. Sicuro che vuole anche me? Assolutamente sì, vecchio mio. Assolutamente sì. Ledner, apri il cancello. Aprite il cancello! Il cancello l'ho fatto venire da un castello in Normandia. Ah, Jay, è grandiosa. Ti piace? Con mormori affascinanti, Daisy ammirava questo o quell'aspetto dei contorni feudali che si stagliavano contro il cielo. E dentro, mentre attraversavano le sale, pareva che vi fossero ospiti nascosti dietro ogni divano e ogni tavolo con l'ordine di tacere e trattenere il fiato finché non fossero passati. Andarono di sopra, nell'appartamento di Gatsby. Lui era visibilmente passato attraverso 2 stadi e stava entrando in un terzo. Dopo l'imbarazzo e la gioia che non ragiona, era divorato dallo stupore per la presenza della donna. Daisy, Daisy, tesoro, che cosa c'è? Io... mi fa sentire triste. Perché? 5 anni perduti lottavano sulle labbra di Daisy. Quando non c'è la nebbia, si vede la luce verde. Quale luce verde? Quella che brilla alla fine del tuo pontile. È possibile che Gatsby si fosse reso conto che il colossale significato di quella luce verde era svanito per sempre. Adesso era di nuovo solo una luce verde su un pontile e dal suo elenco di oggetti incantati ne era sparito uno. I've seen the world done. A metà estate, Gatsby era argomento da prima pagina. Da dove proveniva il denaro? Ecco cosa si chiedeva tutta New York. E se lo chiedeva anche Tom. La sera che accompagnò Daisy a una delle scintillanti feste di Gatsby. Fu una festa staccata da tutte le altre. C'era la stessa gente, o meglio lo stesso genere di gente, la stessa profusione di champagne, la stessa confusione multicolore e multitonale, ma nell'aria si sentiva una spiacevolezza, una sprezza permeante che non vi era mai stata. O forse semplicemente quell'atmosfera faceva parte di un mondo a sé, con le sue leggi e i suoi grandi personaggi. Un sacco di questi nuovi ricchi sono sporchi contrabbandieri, sai? Non Gatsby. Lui è un uomo d'affari, aveva diversi drugstore. Uomo d'affari. Posso mostrarvi la casa? Certo. Mentre si aggiravano fra le centinaia di persone sfavillanti, la voce di Daisy le modulava in gola mille inganni. Queste cose mi entusiasmano. Sì, una bella festicciola. Noi ci siamo già conosciuti, signor Buchanan. Un mese fa circa. Ah sì, certo. E conosco sua moglie. Ah, sul serio? Sì. Daisy e Gatsby ballarono insieme un aggraziato foxtrot all'antica. Nessuno lo aveva mai visto ballare. Poi Gatsby prese per mano Daisy e si allontanarono verso il parco, perdendosi tra i labirinti in penombra, le fontane e gli anfratti nascosti. Hai visto mia moglie? No, è un po' che non la vedo. Si fermarono sotto il susino bianco e i loro visi si sfiorarono, divisi appena da un pallido, sottile raggio di luna. Gatsby si curvò molto lentamente verso di lei per raggiungere quella vicinanza. Con la mano le accarezzò il viso, un ultimo piccolissimo spostamento e le baciò le labbra. Sarebbe una cosa rispettabile. Vivremo qui, in questa casa. Tu e io. Tesoro, è tempo di dirlo a Tom. L'indomani era una giornata da arrostire, forse l'ultima, certo la più calda dell'estate. Decisero di vedersi a casa di Tom Buchanan. La stanza, ben ombreggiata dalle tende, era scura e fresca. Fecero colazione in sala da pranzo, oscurata anch'essa contro il caldo, e ingurgitarono allegria nervosa con la birra ghiacciata. Andiamo in città! Chi vuole andare in città? In città? Oh, le donne vengono i destrani. Tutti insieme presero la decisione, assai poco spiegabile, di affittare il salotto di un appartamento al Plaza Hotel. La stanza era grande e soffocante, e benché fossero già le 4, ad aprire le finestre entrava soltanto una ventata di aria calda dal parco. Daisy si avvicinò allo specchio per riordinarsi i capelli e vi rimase. Ghiaccio, whisky e jazz facevano da contorno a quella afosa atmosfera. Il piede di Gatsby tamburellava inquieto sul pavimento e improvvisamente Tom lo squadrò e gli disse: signor Gatsby, si dice che lei ha studiato a Oxford. No, non esattamente. Ma io ho sentito dire che è stato a Oxford. Oh sì, ci sono stato. Certo. L'uomo vestito di rosa è stato a Oxford. Tom! Ho detto che ci sono stato, chiaro? Oh, ho sentito. Ma vorrei sapere quando. Nel 1919, solo per 5 mesi. Per questo non posso veramente dire che a Oxford ci ho studiato. Fu un'opportunità offerta ad alcuni ufficiali che avevano combattuto in guerra. Ti preparo da bere, Tom. Così non ti sentirai tanto stupido. Un momento. Se non dispiace al signor Gatsby, ho un'altra domanda. No, prego, prego, dica, signor Buchanan, dica. Sta cercando di scatenare una lite in casa mia, risponda. Non è lui che la scatena, sei tu che la scateni. Abbi un po' di autocontrollo. Autocontrollo? Suppongo che la cosa più alla moda adesso è di farsi da parte mentre il signor Nessuno di nessun luogo fa l'amore con tua moglie. Beh, se la pensi così, per me sei fuori strada. Sua moglie non la ama. Non l'ha mai amata. Daisy ama me. Lei è pazzo. No, vecchio mio. No, è così. Daisy non l'ha mai amata. Ha sposato lei solo perché io ero povero e lei era stanca di aspettarmi. È stato un terribile sbaglio, ma in cuor suo, in cuor suo non ha mai amato nessuno tranne me. A questo punto Jordan e Nick cercarono di andarsene, ma Tom e Gatsby insistettero, rivaleggiando in energia, come se nessuno dei due avesse nulla da nascondere e considerasse un privilegio la concessione di partecipare di riflesso alle loro emozioni. In quel momento le cose precipitarono, i toni accesi si infiammarono e le parole divennero ancora più dure. Daisy, non hai capito chi è questo tizio con la sua casa, le sue feste e i suoi assurdi vestiti? Non è altro che una copertura per Wolsham, un gangster per abbindolare gente rispettabile come Walter Chase. L'unica cosa rispettabile che lei ha, vecchio mio, sono i soldi. I soldi, tutto qui. Ma io ne ho tanti quanti lei, perciò siamo uguali. Oh no, no, siamo diversi. Io, loro due, Daisy. Siamo tutti diversi da lei, capisce? Noi siamo nati diversi. Nick diede un'occhiata a Daisy, che stava volgendo atterrita gli occhi sbarrati da Gatsby al marito, e a Jordan, che aveva incominciato a tenere in equilibrio un oggetto invisibile. In quel momento Gatsby aveva davvero l'aria di uno che ha ammazzato un uomo. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Perché non vi avviate voi due? Ho perso un attimo il controllo. Con la macchina del signor Gatsby non ti seccherà. Avrà capito che questo piccolo flirt è finito. Daisy! Daisy! Gatsby e Daisy se ne andarono con il coupé di Gatsby, senza una parola, sbattuti fuori, resi casuali, isolati, come fantasmi, perfino dalla loro pietà. Tom, Nick e Jordan partirono dopo, verso le 7, con l'auto di Tom. Nella Valle delle Ceneri, George Wilson stava male nel suo sgabuzzino dentro il garage. Proprio male, pallido come i suoi capelli slavati e tutto tremante. Aveva appena discusso violentemente con sua moglie Myrtle. Non dirmi bugie! Dove l'hai presa questa? Si può sapere! Non mi puoi dire bugie, ma Dio no! Dio vede ogni cosa! Era uno di quegli uomini finiti. Quando non lavorava, stava seduto su una sedia e guardava la gente e le macchine che passavano sulla strada. Quando qualcuno gli parlava, rideva sempre in modo simpatico e incolore. Apparteneva a sua moglie e non a se stesso. Si picchiarono nella cucina sopra l'officina meccanica. Un attimo dopo lei uscì di corsa nel crepuscolo, agitando le mani e urlando. L'agitazione la portò a correre disperatamente verso la strada, quando l'automobile della morte, come la chiamarono i giornali, non si fermò. Uscì dall'oscurità calante, sbandò tragicamente per un attimo e poi scomparve alla prima curva. You said you don't have to speak. I can't. soccorritori videro la signora Wilson con la bocca spalancata e leggermente squarciata agli angoli. Subito dopo passò la macchina di Tom, rallentò ma ancora senza intenzione di fermarsi, finché quando furono più vicini, le facce silenziose e intente della gente sulla porta del garage gli fecero d'istinto tirare il freno. Il cadavere di Myrtle Wilson avvolto in una coperta e poi in un'altra coperta come se avesse freddo nella notte ribollente era disteso su un tavolo da lavoro lungo il muro e Tom vi era curvo sopra con Wilson in piedi sulla soglia dello sgabuzzino. Accanto a lui stava un motociclista della polizia che prendeva i nomi su un taccuino con molto sudore e molte correzioni. Cosa è successo? È corsa fuori in strada. Io l'ho vista. Una macchina gialla, un macchinone giallo. È sbucata all'improvviso. Sì, una diocesi gialla, una fuoriserie. Non dovete dirmelo voi che macchina era. Io lo so che macchina era quella. Qualcuno gli stava parlando sottovoce e cercava di quando in quando di posargli una mano sulla spalla. Ma Wilson non udiva e non vedeva. Per Tom fu facile dirigere l'odio di Wilson su Gatsby. Di chi era macchina gialla? Di un certo Gatsby. Jay Gatsby. È un delinquente, George. È quello delle feste di cui tutti i giornali parlano. Forse è lui quello che si dava da fare con Myrtle. Per questo che l'ha ammazzato. Può darsi. Uno così, chissà. Con aria sicura, Tom e Nick si fecero strada con decisione fra la folla che continuava ad aumentare e oltrepassarono un dottore affaccendato con la sua valigetta in mano, che mezz'ora prima era stato chiamato in una inutile speranza. Lo difendete ancora? Eh? Tom e Nick salirono in macchina andando adagio finché non furono al di là della curva. Poi il piede premette forte l'acceleratore e il coupé balzò nella notte. Dopo un momento Nick udì un singhiozzo rauco e soffocato e vide le lacrime che inondavano il viso di Tom. Nick fu accompagnato a casa, scese dalla macchina e si avviò piano piano lungo il viale. Dopo una ventina di metri udì pronunciare il suo nome. E Gatsby sbucò dai cespugli sul sentiero. Ciao, vecchio mio. Che stai facendo? C'era trambusto per la strada. La donna che hai investito è morta, Jay. Ne ero certo. L'ho detto a Daisy, meglio Daisy. Se lo shock viene tutto in ma una ti volta. Rendi conto? Come hai potuto fare una cosa del genere? Senti, che Dio mi sia passato. Non sei altro che un maledetto vigliacco. Voce, per favore, per favore. È inutile mettersi a gridare, è successo. È inutile. Non ci penso a quella pur... È inutile, lei è morta all'istante. Io l'ho vista, è stata sventrata. Lo so, Jay. Questo, lo so. È stata solo colpa mia. Quella donna è uscita di corsa come se volesse parlarci. È successo tutto in un secondo. Lei ha Io ho cercato di sterzare, ma... Guidava Daisy. Quando siamo partiti da New York, lei era molto nervosa e ha detto che guidare l'avrebbe calmata. Ma quella donna è corsa verso di noi. È successo tutto in un attimo. Non è stata colpa sua. Nessuno deve sapere che guidava Daisy. Promettimelo. Quella fu la notte in cui finalmente mi disse la verità, tutta intera. Sono cresciuto in una terribile povertà, vecchio mio. I miei erano contadini. Mi raccontò dei suoi umili inizi, del suo viaggio formativo con Dan Cody, della guerra, di Oxford e di come entrò in affari con Wolfsham. E quella fu anche la notte in cui mi resi conto della straordinaria propensione di Gatsby alla speranza. La mia sorpresa nello scoprire che l'amavo, vecchio mio, e che lei amava me. Un dono che non ho mai riscontrato in nessun altro. Di come potesse essere. Non dormì per tutta la notte. Una sirena antinebbia non smise un momento di gemere nello stretto. e fu sballottato tra la realtà grottesca e sogni folli e paurosi. Verso l'alba udì una macchina risalire il viale di Gatsby. Subito balzò dal letto e incominciò a vestirsi. Gli pareva di avere qualcosa da dirgli, qualcosa di cui ammonirlo, e la mattina sarebbe stato troppo tardi. Attraversando il prato vide che la porta d'ingresso era ancora aperta. La sua casa non parve mai così enorme come in quell'alba. Sai, Jay, dopo quello che è successo, tu dovresti andartene. Stanotte rintracceranno la macchina. Andarmene? Di certo non adesso, non stanotte. Jay, ti rendi conto che è stata uccisa una donna? Daisy mi chiamerà domattina e poi decideremo come partire insieme. Gatsby non volle sentirne parlare. Non poteva lasciare Daisy prima di sapere che cosa intendesse fare. Era aggrappato a un'ultima speranza e Nick non aveva il coraggio di dargli uno scrollone per liberarlo. Erano le 9 quando Gatsby e Nick finirono di fare colazione e uscirono sulla veranda. La notte aveva creato una differenza sensibile nel clima e c'era nell'aria un sapore autunnale. Il giardiniere venne ai piedi degli scalini. Signor Gatsby, voglia scusarmi. Chicago al telefono. Non adesso. Lo lasci libero per una chiamata personale. Una chiamata personale, certo. Mi scusi, signor Gatsby, dovrei pulire la piscina oggi, prima che comincino a caderci le foglie. Non oggi. Non oggi, è così bello. Sai, vecchio mio, quest'estate non ho ancora mai usato la piscina. Facciamo un tuffo. Portate il telefono giù alla piscina. Io devo andare, Jay. Il lavoro. Nick e Gatsby si strinsero la mano e Nick se ne andò. Prima di arrivare alla siepe, si ricordò qualcosa e si voltò. Jay! Loro sono tutti marci. Tu da solo vali più di tutti loro messi insieme. Arrivato in città, Nick si diresse al lavoro, sforzandosi per un po' di segnare le quotazioni e provando a lavorare su un numero interminabile di azioni, ma poi si addormentò sulla scrivania. Quella mattina, Wall Street macinava come sempre la sua fragorosa corsa all'oro, ma io non riuscivo a produrre un minimo di lavoro decente. Aspettavo la chiamata di Gatsby, aspettavo notizie, mentre lui aspettava Daisy. Alle 2, Gatsby indossò il costume da bagno e diede ordine al maggiordomo che se qualcuno avesse telefonato, bisognava cercarlo in piscina. Si fermò in garage a prendere un materasso di gomma che durante l'estate aveva tanto divertito i suoi ospiti e lo chauffeur lo aiutò a gonfiarlo. Poi diede istruzioni che la macchina non venisse tirata fuori per nessun motivo, perché il parafango anteriore destro andava riparato. Gatsby si mise in spalla al materasso e si avviò verso la piscina. Una volta raggiunto il bordo, fece un gran respiro e si tuffò. Un'ombra nera e possente si stagliò sul muro della casa, il passo deciso a grandi falcate, la mano tesa a impugnare una pistola. In quell'istante squillò il telefono. Il maggiordomo rispose mentre Gatsby si avvicinava ansioso alla scaletta per uscire dalla piscina. George Wilson gli sparò un colpo al cuore, poi si infilò la pistola in bocca e sparò di nuovo. Pronto? Pronto? Pronto? È successo qualcosa? Pronto? Pronto? Pronto? È successo qualcosa? Thank you. impercettibile movimento dell'acqua, mentre il flusso fresco si dirigeva faticosamente verso lo scarico, all'altra estremità della piscina. Con piccole increspature che erano appena ombre di onde, il materasso carico si spostava a caso nella piscina. Un alito vento che riusciva appena a corrugare la superficie dell'acqua bastò a interrompere l'accidentale percorso col suo carico accidentale. Se solo potessimo scappare. Tu e io. Tu e io. Un fascio di foglie sfiorandolo lo fece girare lentamente, tracciando nell'acqua un sottile circolo rosso. Daisy, tesoro, che cosa c'è? I've seen the world, done it all, had my cake now. I am immense, brilliant, and brilliant now. Hot summer nights, mid July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you. Testo tratto da Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, Mondadori Editore. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin.